Avanti, avanti, chi è? Buonasera. Ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù. Ola, ola, ola, ola, ola, cosa va? 3, 4, 5, 6, prova. Ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù. Mi viene a dire, qua. Allora. Motore. Picchiato come si dice? Cotola, ok, quindi nuovo da un certo punto adesso cosa faccio? Ce lo butto? No, me lo vendo? No, neanche. Lo regalo, perché lo regalo? È meglio. All'amico. Non so se motore non faccio l'etica, pare uguale. Quindi, a un certo punto, è la cosa di lusso. Faccio la foto e me la mando. Sulla storia che c'ho, almeno un pochettino mi fa riflettere, va. Scommetti che fa 5 minuti, 5-10 minuti che arrivano cazzo di chiamate, cazzo mi c'è un cazzo per motore, mi sapete che cosa? Dio mio, questo sacco di soldi, questo sacco, ecco, a un certo punto andate a fanculo e basta, il discorso è quello. Come l'ho fatto a me, tale uguale. Ma perché poi? Così c'è. Ecco, è focaccia. Dice, ma quello. A un certo punto. Adesso c'è la foto e quindi vedete voi. Ora prova, 1, 3, 4, 5, 6, prova. Allora,